E dura sai conviver con la cellulite, specie verso fine maggio, quando è caldo e senti che arriva l'estate. Altre come me preoccupazione sentiranno per l'avvicinarsi della prova a bikini con la quale ci dovremo misurare. Così all'edicola mi reco per comprare le riviste femminili coi consigli per non vergognarsi al mare. Molta indecisione, dieta, ma la ginnastica di Claudio Schiffer non la posso fare, già la invidio e devo pure faticare. E vomitando cereali alla dieta dicono: odio le carote, datemi il peyote e a tutti sorriderò. Non posso sacrificare la pausa pranzo, farmi panni nel bagno di un bar con uno scafandro in cielo fa. Dietro il buco della serratura la coda per vedere questo show che fa anche un po' paura, e dal fondo della coda pure tu che te la ridi sempre più. Ma soffro molto a causa della cellulite. Quando il tempo lo permette la costringo nei collanti contenitivi, no, i pantasnel non van di moda. Così escogito un brevetto sacco della spazzatura metto per nascondere la mia natura. Ah, sto evaporando sotto il sole, ma alla dieta dicono: odio le carote, datemi il peyote e a tutti sorriderò. Non posso sacrificare la pausa pranzo, farmi fagni nel bagno di un bar con uno scafandro in cielo fa. Così mi terrò la mia cellulite, almeno mi ricordo dell'estate passata in riva al mare a Rimini, a dir che magra quella lì. Fine.